Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Il tempo passava. Le ore, una dopo l'altra, sembravano risvegliare la campana e ogni rintocco del battaglio di bronzo echeggiava nel cuore della prigioniera. Alle 10 Felton fece prendere posto una sentinella. Milady ne riconobbe il passo, adesso lo indovinava come una donna indovina quello dell'amante, eppure Milady detestava e insieme disprezzava quel debole fanatico. Non era l'ora stabilita. Felton non entrò. «Senti», disse il giovane alla sentinella, «non allontanarti da questa porta per nessun motivo, perché sai che la notte scorsa un soldato venne punito dal milord per aver abbandonato un momento il posto, sebbene durante la sua breve assenza fossi stato di guardia io, in sua vece». «Sì, lo so», disse il soldato. «Dunque, ti raccomando la più stretta vigilanza. Io», soggiunse, «rientro per ispezionare una seconda volta la camera di quella donna che temo mediti qualcosa di sinistro per la sua persona e che ho avuto l'ordine di sorvegliare». «Bene», mormorò Milady, «ecco che l'austero puritano mente». Quanto al soldato, si limitò a sorridere. «Accidenti, signor luogotenente», disse il soldato, «non siete sfortunato se vi toccano simili incarichi, soprattutto se Milord vi ha autorizzato a guardare fin dentro al suo letto». Felton arrossì. In tutt'altra occasione avrebbe redarguito il soldato che si permetteva simili scherzi, ma la coscienza mormorava troppo forte perché la sua bocca osasse parlare. «Se chiamo, vieni. Così pure, se viene qualcuno, chiamami». «Sì, signor luogotenente», disse il soldato. Felton entrò da Milady. Questa si alzò. «Siete qui?» chiese. «Vi avevo promesso di venire», disse Felton, «e sono venuto». «Mi avete promesso qualcos'altro ancora». «E cosa, mio Dio?» aggiunse il giovane che, nonostante la padronanza di se stesso, sentiva tremargli le ginocchia e la fronte imperlarsi di sudore. «Avete promesso di portarmi un coltello e di lasciarlo dopo il nostro colloquio». «Non parlate di questo, signora», disse Felton. «Non c'è situazione, per quanto terribile, che autorizzi una creatura di Dio a darsi la morte. Ho riflettuto che mai dovevo rendermi colpevole di un simile peccato». «Ah, avete riflettuto», ribatté la prigioniera, sedendo sulla poltrona con un sorriso sdegnoso. «Anch'io ho riflettuto». «A che cosa?» «Che non avevo nulla da dire a un uomo che non manteneva la parola». «Oh mio Dio!» mormorò Felton. «Potete ritirarvi», soggiunse Milady, «non parlerò». «Ecco il coltello», disse Felton, traendo di tasca l'arma che, fedele alla promessa, aveva portato, ma che esitava a consegnare alla prigioniera. «Vediamo», disse Milady. «Per che fare?» «Ve lo rendo immediatamente, parola d'onore, poggiatelo su quel tavolo e restate fra il coltello e me». Felton tese l'arma a Milady, che ne esaminò attentamente la tempra e ne provò la punta sul polpastrello. «Bene», disse restituendo la giovane ufficiale, «è vero e proprio acciaio. Siete un fedele amico, Felton». Questi riprese l'arma e la depose sul tavolo, come era stato stabilito con la prigioniera. Milady lo seguì con gli occhi e fece un gesto di soddisfazione. E ora disse: «Ascoltatemi». La raccomandazione era inutile. Il giovane ufficiale stava diritto davanti a lei, pronto a divorare le sue parole. «Felton», cominciò Milady con una solennità piena di malinconia, «Felton, se vostra sorella, la figlia di vostro padre, vi dicesse: giovanetta ancora, piuttosto bella purtroppo, mi hanno fatta cadere in un tranello. Ho resistito. Hanno moltiplicato intorno a me le insidie, le violenze. Ho resistito. Hanno bestemmiato la religione in cui credo, il Dio che adoro, perché chiamavo in mio aiuto quel Dio e quella religione. E ho resistito. Allora mi hanno coperta di oltraggi, e siccome non potevano perdere la mia anima, hanno voluto macchiare per sempre il mio corpo. Allora Milady si fermò e un amaro sorriso errò sulle sue labbra. Allora, disse Felton, allora che hanno fatto? Allora, una sera decisero di paralizzare quella resistenza che non riuscivano a vincere. Una sera un narcotico potente venne mescolato all'acqua che bevevo. Non appena ebbi terminato la cena, mi sentii cadere a poco in uno strano torpore. Benché non avessi sospetti, mi colse una vaga paura e tentai di lottare contro il sonno. Mi alzai, volli correre alla finestra e chiamare aiuto, ma le gambe si rifiutarono di portarmi. Scivolai sul pavimento in preda a un sonno simile alla morte. Di quanto avvenne durante quel sonno e del tempo che durò non ricordo nulla. La sola cosa che ricordo è che mi risvegliai coricata in una camera rotonda, sontuosamente arredata, nella quale la luce penetrava soltanto da un'apertura nel soffitto. Nessuna porta sembrava darvi adito, la si sarebbe detta una splendida prigione. Ci misi molto a rendermi conto del luogo in cui mi trovavo e di tutti i particolari che vi riferisco. Avevo confuse percezioni di uno spazio percorso, del rotolare di una carrozza, di un sogno orribile in cui avessi esaurito le mie forze. Ma tutto ciò era così scuro e così indistinto nella mia mente che quegli avvenimenti sembravano appartenere a una vita diversa dalla mia, e tuttavia mescolata alla mia in un dualismo fantastico. Per un po' lo stato in cui mi trovavo mi parve così strano che credetti di sognare. Mi alzai barcollando, i miei abiti erano accanto a me su una seggiola, non ricordavo di essermi né spogliata né coricata. Allora, a poco la realtà mi si prospettò piena di pudichi terrori. Non ero nella casa dove abitavo. Per quanto potevo giudicare dalla luce del sole, il giorno era già trascorso per due terzi. Mi ero addormentata la sera prima. Il mio sonno era dunque durato circa 24 ore. Che cosa era successo durante quel lungo sonno? Mi vestii il più rapidamente possibile. Tutti i miei movimenti lenti e intorpiditi attestavano che l'effetto del narcotico non era ancora svanito del tutto. A un tratto, il cigolio di una porta che gira sui cardini mi fece sobbalzare. Un globo di fuoco apparve sulla vetrata del soffitto, inondando di luce la stanza, e con terrore mi accorsi che un uomo stava ritto a pochi passi da me. Una tavola apparecchiata per due, con la cena pronta, era comparsa come per magia in mezzo alla stanza. L'uomo era colui che mi perseguitava da un anno, che aveva giurato il mio disonore e che fin dalle prime parole che gli uscirono di bocca mi fece capire che già la notte precedente aveva perpetrato il suo misfatto. «Infame!» mormorò Felton. «Oh sì!» «Infame!» esclamò Milady, vedendo l'interesse che il giovane ufficiale, il cui animo sembrava pendesse dalle sue labbra, prendeva a quello strano racconto. «Oh sì, infame!» Aveva creduto che bastasse avere abusato di me nel sonno perché tutto fosse risolto. Veniva con la speranza che avrei accettato il mio disonore, visto che il mio disonore era consumato. Veniva a offrirmi la sua ricchezza in cambio del mio amore. Balzai verso la tavola, afferrai un coltello, l'appoggiai sul mio petto. «Fate un altro passo», gli dissi, «e oltre al mio disonore avrete da rimproverarvi anche la mia morte». Indubbiamente nel mio sguardo, nella mia voce, in tutta la mia persona, c'era quella verità di gesto, di atteggiamento e di accento che persuade anche gli animi più traviati, perché lui si fermò. «La vostra morte!» mi disse. Oh no, siete un amante troppo incantevole perché io acconsenta a perdervi così, dopo aver avuto la fortuna di possedervi una volta soltanto. Addio, mia bellissima. Aspetterò per tornare a farvi visita che siate in disposizioni migliori. Passai la notte su una seggiola, trasalendo al minimo rumore, perché a mezzanotte circa la lampada si era spenta e io mi ero ritrovata nell'oscurità. Ma la notte trascorse senza un nuovo tentativo del mio persecutore. Venne l'alba, la tavola era scomparsa, ma io stringevo ancora in mano il coltello. Quel coltello era tutta la mia speranza. Ero stremata dalla fatica, l'insonnia mi bruciava gli occhi, non avevo osato dormire un solo momento, la luce mi rassicurò, andai a buttarmi sul letto senza abbandonare il coltello liberatore che ce l'hai sotto il cuscino. Al mio risveglio c'era un'altra tavola apparecchiata. Questa volta, nonostante i miei terrori, a dispetto delle mie angosce, una fame rabbiosa si faceva sentire. Da 48 ore non avevo toccato cibo di sorta. Mangiai un po' di pane e alcuni frutti, poi, ricordandomi del narcotico mescolato all'acqua che avevo bevuta, non assaggiai neppure quello che era sulla tavola e andai a riempire il bicchiere a una fontanella di marmo infissa nel muro, sopra la toeletta. Fin dai primi sorsi mi parve che non avesse più lo stesso sapore del mattino. Mi balenò un sospetto, mi trattenni, ma ne avevo trangugiato già mezzo bicchiere. Non era passata mezz'ora che si manifestarono i medesimi sintomi, però siccome avevo bevuto solo un mezzo bicchiere, lottai più a lungo e invece di addormentarmi del tutto caddi in una specie di torpore che mi lasciava la percezione di ciò che avveniva intorno a me, pur togliendomi la forza di difendermi o di fuggire. Mi trascinai fino al letto per cercarvi l'unica difesa che mi rimanesse, il coltello salvatore, ma non riuscii a giungere al capezzale. Caddi in ginocchio, le mani aggrappate a una delle colonne a piedi del letto. Allora compresi che ero perduta. Felton impallidì atrocemente e un fremito convulso gli corse per tutto il corpo. «La cosa più orrenda», continuò Milady con la voce alterata, «come se ancora provasse l'angoscia di quel terribile momento, è che questa volta avevo coscienza del pericolo che mi minacciava. La mia anima, posso dirlo, vegliava nel mio corpo assopito, vedevo, udivo. Tutto era come in un sogno, è vero, ma non per questo era meno spaventoso». «Ma ditemi, chi era quell'uomo?» gridò il giovane ufficiale. Con un'occhiata Milady vide quanta sofferenza provocasse in Felton, soffermandosi su ogni particolare del racconto, ma non voleva risparmiargli nessuna tortura. Quanto più profondamente gli avesse spezzato il cuore, tanto più sicuramente lui l'avrebbe vendicata. Continuò pertanto come se non avesse udito l'esclamazione o come se avesse pensato che non era ancor giunto il momento di rispondervi. «Questa volta», proseguì, «l'infame non aveva a che fare però con un corpo ridotto allo stato di inerte cadavere privo di sensi. Ve l'ho detto, senza che riuscissi a recuperare l'esercizio completo delle mie facoltà, mi rimaneva il sentimento del pericolo. Lottai quindi con tutte le mie forze e certo, per quanto indebolita, opposi una lunga resistenza. Perché lo sentii gridare, queste miserabili puritane. Sapevo che tenevano testa ai carnefici, ma le credevo meno forti contro i seduttori. Ahimè, quella resistenza disperata non poteva durare a lungo, sentii che le forze mi abbandonavano. Quando tornai in me, il mio primo impulso fu di cercare sotto il guanciale il coltello che non ero riuscito ad afferrare. Se non era servito la difesa, poteva almeno servire all'espiazione. Nel prendere quel coltello, Felton, mi balenò un'idea terribile. Ho giurato di dirvi tutto e vi dirò tutto. Vi ho promesso la verità e la dirò a costo di perdermi. Venne la sera. Tutto si svolse come al solito. Durante l'oscurità, come sempre, mi venne servita la cena, poi si accese la lampada e mi misi a tavola. Mangiai solo qualche frutto, finsi di versarmi dell'acqua nella caraffa. Dopo cena manifestai gli stessi segni di torpore della vigilia, ma questa volta come se cedessi alla stanchezza o mi familiarizzassi con il pericolo, mi trascinai fino al letto e finsi di addormentarmi. Avevo ritrovato il coltello sotto il guanciale e, pur fingendo di dormire, la mia mano ne stringeva convulsamente l'impugnatura. Trascorsero 2 ore senza che accadesse nulla di nuovo. Finalmente udii il ben noto cigolio della porta che si apriva e si richiudeva. Nonostante il folto tappeto, udii un passo che faceva scricchiolare il pavimento. Nonostante l'oscurità, vidi un'ombra che si accostava al mio letto. Felton esclamò: «Sbrigatevi! Sbrigatevi! Non vedete che ogni vostra parola mi brucia come piombo fuso?» Allora, continuò Milady, allora riunii tutte le mie forze. Ricordai che il momento della vendetta, o meglio, della giustizia, era suonato. Mi considerai una nuova Giuditta, mi rannicchiai con il coltello in mano, e quando lo vidi accanto a me che stendeva il braccio per cercare la sua vittima, allora, con l'estremo grido del dolore e della disperazione, lo colpii in pieno petto. Ma il miserabile aveva tutto previsto. Il suo petto era coperto da una cotta di maglia. Il coltello si spuntò. «Ah, ah!» affermò afferrandomi il braccio e strappandomi l'arma che mi era stata così poco utile. «Attentate alla mia vita, bella puritana! Ma questo è più che odio, è ingratitudine! So via, calmatevi, bella bambina. Avevo creduto che vi foste ammansita. Non sono di quei tiranni che trattengono le donne a forza. Voi non mi amate. Per la mia solita fatuità ne dubitavo. Ora ne sono convinto. Domani sarete libera. Io avevo un solo desiderio. Che egli mi uccidesse. Badate, gli dissi, la mia libertà è il vostro disonore. Sì, perché non appena uscita di qui racconterò tutto. Racconterò della violenza che mi avete fatta, racconterò della mia prigionia. Denunzierò questo palazzo d'infamia. Voi siete molto in alto, milord, ma tremate. Al di sopra di voi c'è il re, e al di sopra del re c'è Dio. «Badate bene», disse lui, con un accento di minaccia che non avevo ancora udito. «Ho un mezzo estremo, che adoprerò soltanto nel caso estremo, per chiudervi la bocca o almeno per impedirvi che si creda anche una sola sillaba di quanto direte». Raccolsi tutte le mie energie per rispondere con una risata. Egli capì che tra di noi c'era ormai una guerra eterna, una guerra a morte. «Ascoltatemi», disse. «Vi concedo ancora il resto di questa notte e la giornata di domani. Riflettete, promettete di tacere e la ricchezza, la stima, perfino gli onori vi circonderanno. Minacciate di parlare e vi condanno all'infamia». «Voi!» esclamai. «Voi! All'infamia eterna, incancellabile! Voi!» ripetevo. «Ah, ve lo assicuro, Felton, lo credevo fuori di senno. Sì, egli riprese, io. Ah, lasciatemi, dissi, uscite se non volete che davanti ai vostri occhi mi spacchi la testa contro il muro. Bene, egli riprese, lo volete voi. A domani sera. A domani sera, risposi lasciandomi cadere a terra e mordendo con rabbia il tappeto. Felton si appoggiava a un mobile e Milady, con gioia demoniaca, vedeva che forse gli sarebbero mancate le forze prima della fine del racconto. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it